Radio 24 Reportage. EFUS, il network dei sindaci per la sicurezza urbana, di Laura Bettini. Ma cos'è? Ma che senso ha questo amore per la mia città? Mancano solo due tappe alla conclusione del tour europeo di presentazione del manifesto Sicurezza, Democrazia e Città. Llobregat in Spagna e Sosnowiec in Polonia. Il gran finale è previsto a Bruxelles il 10 dicembre, quando si presenteranno alle istituzioni europee le conclusioni del dibattito itinerante, durato un anno, sulla sicurezza urbana. Calore di radici. Un tour che ha toccato anche l'Italia, tappa Reggio Emilia, il cui assessore alla coesione e sicurezza sociale, Franco Corradini, è proprio uno dei due vicepresidenti del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, EFUS, che ha redatto questo manifesto. C'è un progetto che non riguarda solo Reggio Emilia e c'è una, diciamo, declinazione chiara di come questo tema della sicurezza urbana può essere affrontato non solo nelle città, ma credo anche nazionalmente. Il punto 1 del progetto è la prevenzione. Il network dei 300 comuni europei riuniti in EFUS ritiene infatti che la sicurezza nelle città non arriverà mai dalla sola repressione. Nel mondo la criminalità diminuisce, ripete convinto, citando le statistiche, il presidente di EFUS, Guilherme Pinto, sindaco di Matosinhos in Portogallo, mentre aumentano la percezione di insicurezza e le spese di polizia. Un assurdo, dice Pinto. Un po' in tutto il mondo la criminalità tende a scendere, nonostante continuiamo a sentire notizie di fatti di criminalità, la tendenza mondiale è quella di una diminuzione della criminalità. Non che per noi italiani sia una reale semplificazione linguistica, ma il manifesto Sicurezza, Democrazia e Città viene abitualmente chiamato manifesto di Aubervilliers e Saint-Denis, dal nome del luogo in cui si svolse il primo incontro del network su questo tema. Sono tra l'altro due cittadine francesi che nel 2005 conobbero l'esplosione della violenza delle banlieue parigine. Ed è proprio l'esperienza maturata nelle diverse città, nella appunto prevenzione e gestione dei problemi, che è la base fondante del manifesto e delle sue proposte. Ancora Pinto. Praticamente tutte le ville della nostra regione hanno già. Ci sono attualmente delle città in diverse regioni che vivono problemi che domani altre città vivranno e quindi che già hanno forse le soluzioni che potranno essere applicate in questi casi. Nella mia esperienza, quello che ho potuto vedere un po' dappertutto è che bisogna investire sulle città per poter migliorare sempre di più la qualità della vita dei cittadini. Ci sono infatti dei livelli in cui le politiche non riescono ad essere efficaci. È il livello locale che può avere un ruolo molto più importante per poter intervenire, per creare quei legami che lo Stato non riuscirebbe a legare perché è troppo distante, perché è troppo lontano. E allora è a livello locale che tutto si può giocare. Politiche di inclusione, accoglienza, integrazione, parità di genere, riqualificazione urbana hanno più successo della sola repressione. In questo senso, sostiene il manifesto di Aubervilliers e Saint-Denis, le forze dell'ordine devono continuare il loro lavoro di polizia, ma devono anche diventare attori della prevenzione. Il sindaco Ugo Ferrari di Reggio Emilia aveva affermato già che la città ha il suo piano per la sicurezza urbana concordato con le forze dell'ordine, ma il questore Domenico Savi ci tiene a questo punto a precisare che comunque quella è la missione delle forze di polizia in tutta Italia e già da tempo. Noi come amministrazione dell'interno, come polizia di Stato, diciamo che è almeno un trentennio che cerchiamo di fare in maniera convinta quest'opera di penetrazione sociale e civile, ponendoci in un tipo di sintonia e di raccordo con il cittadino al centro delle nostre attenzioni. Nel corso della giornata si parla di mafie, di criminalità organizzata e di gioco d'azzardo, molto anche di corruzione e del contrasto alla corruzione all'interno dell'amministrazione locale. Andrea Campinotti è sindaco di Certaldo, ma anche presidente di Avviso Pubblico, rete degli enti locali per la formazione civile contro le mafie. Occorre che questo patrimonio, che purtroppo noi abbiamo imparato sulla nostra pelle, diventi sempre di più un patrimonio europeo, per non scoprire che il tema dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel governo delle comunità locali purtroppo piano piano non sia un problema solo italiano. E quando poi, siccome la politica locale è quella più esposta, si scopre che il potere dei soldi delle mafie ha inquinato il libero confronto e la libera determinazione di una comunità, è evidente che poi ricostruire uno spazio più sicuro, una comunità più democratica dove si tutelano le libertà è particolarmente difficile, come ci insegna la nostra storia. Ma di questi tempi sul senso di sicurezza dei cittadini italiani incidono, forse ancor più delle mafie, gli incontrollabili flussi migratori provenienti dal Mediterraneo. Solo a nominarla, per la sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, parte spontaneo un applauso. Le emergenze, dice l'assessore alla sicurezza urbana di Prato, Aldo Milone, vengono tutte scaricate sui comuni. Il problema dei profughi che inevitabilmente è scaricato sugli enti locali. Alla fine si vanno a prendere lo Stato, il governo, al di là poi dell'Europa. Poi il problema è degli enti locali, enti locali, comuni che dovranno gestirlo poi con la loro presenza, cercare di dare anche una dignità per la loro presenza sul territorio, e quindi e oltretutto non parliamo di mancanze di risorse e quant'altro. E ritorna su questo tema anche il presidente di EFUS, Guilherme Pinto. Il problema non sono i problemi che voi avete. Abbiamo visto con le vicende di Lampedusa quanto ci siano dei limiti al lavoro delle città e al ruolo delle città. Non possiamo pensare che siano le città, che pur sono investite da questi problemi, a decidere le politiche europee di migrazione. Quindi senza le città, che vivono in primis questi grandi problemi, devono accogliere persone che non sono benvenute, perché non sono persone che sono state chiamate ad arrivare sul territorio. E le città vanno però aiutate per poter controllare, per poter trattare, per poter fornire anche quegli elementi di base che possono essere il cibo, possono essere un tetto oppure altri elementi. È chiaro che è qui che deve intervenire l'Europa, non il singolo, non la città. Non è a caso che presidente della Federazione Italiana per la Sicurezza Urbana e delegato ANCI alla sicurezza sia il sindaco di un'altra città emiliana, Giorgio Pighi, primo cittadino a Modena. È un segno dell'attenzione tipica di queste terre all'integrazione e al benessere dei cittadini. Sarà per la lunga esperienza nel trattare le differenze e smussare gli spigoli che Pighi non ci va affatto leggero con l'Europa. Le norme, le leggi per sull'immigrazione sono leggi degli stati. Ovviamente l'Unione Europea prevede che il controllo delle frontiere esterne appartiene all'Unione. Cioè, se sono due concetti che vanno in collisione, se noi non riusciamo a fare andare avanti, non può funzionare, perché in questo caso si presenta non come un problema di immigrati, di flussi, cioè di persone che vogliono passare davanti agli altri per entrare legalmente, sono persone che scappano. E allora è un problema che si pone come problema di frontiere, e questo lo può risolvere solo l'Unione Europea, perché altrimenti non ci salteremo mai fuori. Altrimenti appunto diventa problema del sindaco di Lampedusa. L'assessore Corradini porta l'esempio della sua città, Reggio Emilia. In Reggio Emilia ci sono 31.000 migranti regolari, i richiedenti asilo. Residenti quanti? Su 170.000, siamo al 18%. E i richiedenti asilo che sono transitati in città negli ultimi anni saranno 300-400. Però l'aspetto, diciamo, di una nuova normativa che chiarisca fino in fondo chi ha diritto all'asilo e chi non ha diritto, e quali sono i livelli di accoglienza, perché nelle nostre città abbiamo definito non solo un tetto e da mangiare, ma lingua italiana, mediazione culturale, avviamento al lavoro, formazione professionale. In altre realtà semplicemente si è affidato la cosa agli albergatori. Questo secondo me è l'aspetto che è carente. È severo anche il giudizio del presidente di EFUS, Guilherme Pinto. La risposta sarà jamais faire une forteresse sur l'Europe. È impensabile poter risolvere i problemi creando un'Europa fortezza, ovvero adottare politiche di chiusura, chiusura delle frontiere e protezione delle frontiere. E lo abbiamo visto, è impossibile in quasi tutti i paesi risolvere il problema con una chiusura, e soprattutto pensare che il problema sia solo quello dei paesi frontalieri, altrimenti non ci può essere futuro da questo punto di vista. Perché? Perché l'abbiamo visto in diverse esperienze nel mondo, pensiamo alla frontiera Stati Uniti-Messico, in cui sono state adottate politiche di forte blocco dell'immigrazione senza però risolvere alcunché. Certo, l'Europa deve dotarsi di politiche di immigrazione per avere un futuro. Questo dipenderà poi da come, in particolare i paesi del nord, chiamiamoli così, decideranno di affrontare il problema o se continueranno invece a demandare e a pensare che è soltanto un problema dei paesi di accoglienza. Tutto questo parlare di immigrazione si è tradotto infine in un appello rivolto all'Unione Europea direttamente dalla conferenza EFUS di Reggio Emilia. Un appello che rappresenterà anche il contributo della tappa italiana alla discussione sul manifesto di Aubervilliers e Saint-Denis. Contiene una richiesta di condivisione di responsabilità e di supporto alle comunità che si devono confrontare con serie crisi umanitarie dovute a flussi massicci di immigrazione. Se ne parlerà anche di questo il 10 dicembre a Bruxelles. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.